Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente, e viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Bentrovati nel giardino di Radio 24. Se Giacomo Leopardi, davanti ad una siepe, ha trovato l'ispirazione per scrivere l'infinito, pensate cosa possono riuscire a fare i vegetali perfino quando si limitano a schermare la vista. Mi sembra quindi quasi limitativo definire distanziatori verdi le piante che quest'estate potremmo usare per ottimizzare gli spazi e dotare bar, ristoranti, locali, stabilimenti balneari di barriere vegetali in grado di separare fisicamente ambienti e persone, bloccando il droplet aereo portatore del virus. A promuovere le siepi anticontagio è Coldiretti. A produrle, tra le altre, è l'azienda pistoiese Giorgio Tesi Group, di cui abbiamo in linea il presidente Fabrizio Tesi, anche presidente di Coldiretti Pistoia. Ben trovato al Giardino Segreto. Buona domenica a tutti. Ma sicuramente è un po' quello che ci ha ispirato proprio in questi giorni, con la vicinanza della riapertura dei vari negozi, bar, ristoranti, hotel, stabilimenti balneari. Si sentiva in ogni parte, in ogni luogo, distanziamenti sociali di ogni genere. Noi che ormai da anni abbiamo nel nostro stock, nella nostra produzione, queste tipologie di piante che si prestano proprio in maniera impeccabile per questa situazione, abbiamo detto: ma perché non proponiamo i nostri prodotti appunto per questa necessità impellente? Perché poi si tratta di piante di varia natura, è sufficiente dargli una forma per quanto riguarda le giardiniere, facendoli crescere in maniera rettangolare e formarle all'altezza che uno desidera. E in altro modo, per gli spazi più stretti, si sono create delle spalliere con strutture di ferro dove praticamente andiamo ad attaccare in maniera da coprire tutti gli spazi le rame delle piante che si vogliono creare. Un'idea direi anche abbastanza semplice, ma che in questo momento è credo fondamentale, proprio per quello che diceva lei, rimanere seduta in un ristorante, in un bar, con delle piante vicino, penso sia un'altra cosa che averci altre tipologie di prodotti. Profumi, bellezza, ambiente, aria pulita. E fantasia, perché la vista delle piante la regala. Se guardi una pianta, anche solo una scrematura verde, scopri la vita, dagli impollinatori che attira, dagli uccellini che arrivano, dalle fioriture, i profumi di cui lei parlava. Per cui davvero addobbare, diciamo, i nostri locali, le nostre città con delle siepi o delle piante non può fare che bene, a prescindere dal Covid e dal contagio. Contagio che, come lei ci spiegava, riescono quindi ad impedire, perché in qualche modo, così costruite, queste barriere verdi sono droplet. Sì, certamente bisogna andare a selezionare piante che non abbiano problematiche di tipo anche allergiche, di tipo anche di spine, piante anche che magari possono essere in qualche maniera velenose, con delle bacche dove un bimbo si può avvicinare e mettersele in bocca, insomma fare anche attenzione alla tipologia di pianta. Poi ogni periodo avrà la sua pianta. Fino adesso, ancora per poche settimane, erano bellissime le rose. Nonostante le rose abbiano le spine, però è una cosa troppo bella anche per gli occhi, per il profumo che emanano. E tanti nostri clienti hanno scelto le rose. Poi dipenderà anche poi per le località da dover allestire, perché immagini che in uno stabilimento balneare o sulla spiaggia o in prossimità servono adatte al clima marino. E allora lì andremo a scegliere piante mediterranee, come il pitospero, l'alloro, il leccio, la bougainville che sta fiorita tutta l'estate. La bellezza di questa tipologia di prodotto Sono due, direi, molto importanti. Le varietà delle piante, che sono tantissime, si prestano per ogni situazione, e poi le misure, perché poi le misure si possono creare al di là delle misure standard, che partono da 80 centimetri fino a 2 metri, anche 2,50, anche 3 metri esemplari per chiudere magari delle muri non belli da vedere o spazi da delimitare. Perciò le caratteristiche principali sono, come dicevo prima, la varietà immensa delle piante che si può andare a proporre e le misure che poi si, oltre alle standard, le possiamo creare in base alle richieste. E la varietà delle piante, appunto, è infinita, per cui ne esistono senz'altro per le nostre esigenze, per la nostra località, per la nostra esposizione e così via. E poi, come dice lei, è tutto personalizzabile, visto che dobbiamo inventarceli questi spazi nuovi dell'estate 2020. Ma cosa dice? Sono adatte queste barriere verdi anche per gli spazi chiusi? Mi riferisco, ad esempio, appunto ai ristoranti che uno spazio all'aperto non ce l'hanno, ma sono magari molto grandi. Bisogna selezionare piante adatte per l'interno. Noi come azienda siamo produttori di piante da esterno, però ecco, ci sono anche aziende che stanno pensando di produrre spalliere, giardiniere per piante da interno, per interiore, dei ristoranti, dei bar, degli hotel. Ci può fare qualche esempio, consigliare qualche pianta particolarmente adatta a questo scopo? Perché è vero che chi adotterà questi sistemi potrà anche essere una persona che non è mai stata vicina alle piante, non le conosce, non le sa coltivare, e in realtà questi distanziatori verdi dovranno essere invece ben curati e rigogliosi, perché altrimenti delle piante che non vengono seguite danno l'effetto opposto a chi arriva nel nostro locale, chi insomma si avvicina al nostro stabilimento. Per cui quali sono le piante più rustiche, diciamo, adatte a chi comincia ora? Sono tantissime. Ora, la nostra speranza è che questa piante e questo sistema di distanziamento, di riposizionamento, sia valido anche dopo l'emergenza del Covid, perché comunque le piante danno sempre, come si diceva prima, bellezza ambiente. Perciò, insomma, anche una pianta, una volta che l'hai coltivata, l'hai tenuta per anni, ci auguriamo che la gente comunque ne tenga di conto e la tratti veramente nel modo giusto, faccia le annaffiature giuste, faccia le potature giuste. Beh, c'è da dire che chi avvicina le piante poi le trattiene, perché bisogna dirlo, ti conquistano. Sì, assolutamente, questo è quello che ci auguriamo e quello che succede spesso, e la gente comunque sono capaci, ci chiedono, ma non è nemmeno così difficile mantenere una pianta formata a giardiniera o a spalliera, perché come mi chiedevano non è assolutamente complicato. Al di là delle mille varietà, è sufficiente avere una struttura, una giardiniera di 1 metro, di 80 centimetri, con una struttura di ferro, altezza quella che uno desidera, di 1,20 m, 1,50 m, e avere delle belle piante ben rigogliose, con una forte ramificazione, e attaccarle in maniera da coprire tutta la parete. Volendo, uno se le vuole anche costruire da solo, basta acquistare i prodotti, le piante, la giardiniera, il terriccio, e anche tanti riescono a farle da solo. E la cosa da fare attenzione è, come dicevo prima, vicino al mare, su una spiaggia, su un arenile, bisogna mettere piante che non soffrono la salsedine, perciò le piante che vediamo tutti i giorni quando siamo vicino al mare, l'oleandro, il leccio, la bougainville, il mirto, che dà profumi fortissimi, c'è qualcosa di eccezionale, ma abbiamo anche gli agrumi, limoni, aranci con il frutto attaccato, che sono uno spettacolo. Ora magari sono piante particolari per zone particolari, dove magari anche lì il costo è superiore, non è abbordabile da tutti, ma immagini una parete di 2 metri con 20 limoni attaccati, e essere vicino, la sensazione che le può dare. Che profumi sta facendo arrivare a noi intrappolati in città ormai da mesi? Da questo punto di vista c'è da dire che anche Piantefaro in Sicilia si sta organizzando per fornire distanziatori verdi con la flora tipica mediterranea, quindi adatti al nostro sud, alle nostre coste. Però ci sono anche i torinesi, i milanesi. La montagna, la collina, i centri storici delle città. Noi stiamo allestendo proprio in questo momento i primi spazi per i ristoranti del centro storico di Pistoia, per i pub. e hanno scelto piante qui della nostra zona. Per esempio hanno scelto il gelsomino, il ricosperum, che adesso è fiorito. Hanno scelto la fotinia, che ha quel bel colore rosso che si presta bene, cupressus di vario genere, ancora le rose, perché ancora per 10 giorni sono fiorite. E anche il vaso è importante, la giardiniera, magari invece di un colore nero o rosso, che è quello normale, qui a Pistoia abbiamo deciso di mettere o cassette di legno, anche se sono un po' più care perché il legno è molto bello, oppure una plastica di color grigio che è molto elegante e nei centri storici si presta molto bene. E quindi ci si può sbizzarrire anche sui contenitori per arredare quest'estate 2020, che io mi auguro ci trovi tutti fuori, in buona salute e soprattutto sempre di più in mezzo alle piante. La Giorgio Tesi di Pistoia è un'azienda con una vocazione all'export e so che questo tipo di distanziatori stanno avendo molto successo anche in altri stati. Sì, noi storicamente vendiamo il nostro prodotto all'80% fuori dall'Italia, in circa 60 paesi. E appunto producevamo queste piante proprio per questi mercati, perché la richiesta veniva molto da paesi del nord Europa, Germania, Olanda, Inghilterra, usavano già regolarmente queste tipologie di piante. In Italia stava arrivando piano piano. Adesso con questa necessità devo dire che l'idea sta raccogliendo veramente un successo importante, riceviamo richieste da ogni parte d'Italia e questo non ci fa che piacere, ripeto, non soltanto per la nostra azienda, ma per tutto il florovivaismo, che dopo un periodo veramente così difficile con questo Covid, che ci ha preso proprio nel momento delle forti vendite, è una boccata di ossigeno anche per tutte le aziende del florovivaismo. Sì, in generale, e del distretto di Pistoia, che è stato particolarmente colpito. Sì, Pistoia è la capitale del verde riconosciuta a livello europeo. Ci sono oltre 1200 aziende, decine di migliaia di ettari di produzione, oltre 10.000 addetti. E si immagini la situazione qui, abbiamo dovuto passare per 2 mesi, dove si sono bloccate quasi completamente le vendite e abbiamo dovuto sostenere i costi per poter mantenere le nostre piante in vita, rinvasarle, perché dovevano partire e invece sono dovute essere ripotate, riconcimate, spostarle perché stavano arrivando le nuove e avevamo le vecchie che non sono partite. Pertanto il problema è stato doppio per noi, la mancanza delle vendite e i costi, gli stessi costi da dover sostenere per la manutenzione delle piante. Il vivaio non si chiude. Il vivaio non è una fabbrica che chiudi dopo 2 mesi, dopo un mese di ferie, vai, riapri, accendi l'interruttore e riparti. Noi qua tutto l'anno, che piove, che ci sia il sole, dobbiamo essere accanto, perché altrimenti perdiamo quello che è un po' la nostra ricchezza, che è la nostra produzione. E fare una pianta a Pistoia, sono piante con cicli lunghissimi, minimo 3-4 anni, ma ci sono piante di 10, 15, 20 anni che le coltiviamo giorno per giorno. Voi siete sempre stati a contatto con le piante in questo periodo, anche nei momenti di massima chiusura, per i motivi che ci ha spiegato. Però io penso che invece la lontananza dalla natura e dalle piante a cui sono stati costretti i cittadini in questo periodo non farà altro che aumentare il desiderio e la voglia di natura e di vegetali. Per cui, a mio parere, ne vorremmo sempre di più. Questo è quello che sta succedendo. Ci speravamo. Posso dire che questi primi 20 giorni di maggio c'è una ripresa, perché sono riaperti i garden, la gente ha cominciato a muoversi. È quello che sta succedendo, francamente. Speriamo che continui per il futuro. Grazie a Fabrizio Tesi, presidente di Giorgio Tesi Group e presidente di Coldiretti Pistoia, per essere stato al Giardino Segreto. Grazie a voi dell'opportunità e complimenti davvero. Grazie mille. Bellezza delle piante. I soli esseri viventi in questo universo che non producono rumore né rifiuti. Mario Andrea Rigoni. A proposito di piante spazio, tra poco parliamo di Green Cube, l'orto tutto italiano che presto sarà in orbita a 6.000 km dalla Terra. Il giardino segreto. Il Sole, con tutti quei pianeti che gli girano attorno e da lui dipendono, può ancora far maturare una manciata di grappoli d'uva, come se non avesse nient'altro da fare nell'universo. Galileo Galilei. Le piante non si limitano più ad essere il legame tra la Terra e il Sole, oramai vanno alla conquista di altri pianeti. È in partenza infatti Green Cube, un microorto contenuto per la prima volta a bordo di un mini satellite che verrà lanciato in occasione del volo inaugurale del vettore ufficiale Vega C dell'Agenzia Spaziale Europea. Obiettivo: sperimentare la coltivazione nello spazio in modo che gli astronauti del futuro possano avere sempre cibo fresco. Un progetto totalmente made in Italy, come ci conferma Luca Nardi, ricercatore del laboratorio Biotecnologie di Enea. Ben trovato a Giardino Segreto. Buona domenica. Sì, è un progetto finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, si chiama Green Cube, ed è realizzata la parte del satellite da un gruppo di giovani ingegneri dell'Università della Sapienza, guidati dal professor Santoni, e in collaborazione con Enea e l'Università Federico II di Napoli. Quindi c'è una collaborazione diretta tra tutti questi enti. In più, il lanciatore che manderà questo satellite in orbita, questo piccolo satellite, è realizzato dalla ditta Avio, che ha sede a Colleferro. Quindi un gruppo tutto italiano, sia per quanto riguarda il lanciatore, sia per quanto riguarda chi realizza poi il satellite. Un piccolo satellite, un cubo di 30 cm per 10 per 10. Cioè un orto in una scatola da scarpe? Sì, una piccolissima, più piccola. È una piccola scatola e all'interno dobbiamo coltivare microverdure, e queste microverdure dovrebbero essere dati poi a supporto della dieta degli astronauti nelle future missioni spaziali. Il satellite andrà a occupare un'orbita particolare in cui si troveranno delle condizioni veramente estreme e vediamo se le piante riescono a sopravvivere e a fornire quello che dovrebbero in futuro durante le missioni, dare un supporto alimentare di alta qualità. Le piante sono in partenza per lo spazio sul vettore Vega C dell'Agenzia Spaziale Europea. Europea, a 6.000 km dalla Terra. Quando ci sarà questa partenza? È programmata per novembre. ESA continua a mantenere, l'Agenzia Spaziale Europea continua a dire che il lancio dovrebbe avvenire per novembre, però poi con il Covid ci sono state tutta una serie di problematiche. Però dovrebbe essere quello il periodo, a meno che non subisca dei ritardi, e questo è il lancio inaugurale di questo vettore. In ogni caso, il microorto è pronto. Il microorto lo stanno finendo di realizzare, l'Università della Sapienza lo sta ultimando e poi ci sono tutta una serie di esperimenti da condurre a terra prima del lancio. Naturalmente, parlando di un microorto da lanciare nello spazio, è ovvio che non possiamo pensare che ci sia del terriccio, la coltivazione non sarà quella tradizionale. No, si utilizzeranno dei substrati particolari perché l'orto si troverà in una condizione di microgravità reale e ci saranno anche le radiazioni che avranno un effetto diretto su queste piante. Il ciclo è breve, dura intorno ai 15-20 giorni e si vedrà se le piante riescono a crescere e a sopravvivere. Sono molto interessanti perché è un alimento che si è dimostrato nel tempo e molte pubblicazioni scientifiche sono uscite sul fatto che questo alimento ha un'elevata qualità nutrizionale, è molto ricco in vitamine, più delle piante allo stadio adulto, e quindi questo permetterebbe poi agli astronauti di avere durante la fase di viaggio un alimento fresco e un alimento pieno di antiossidanti e vitamine. Quindi gli astronauti potranno coltivarsi il loro cibo, mangiarlo assolutamente fresco, però ci dica che piante avete scelto, che in 20 giorni concludono il ciclo tanto da essere più nutrienti e benefiche di quelle adulte. Le microverdure sono interessanti perché hanno un ciclo molto breve e sono molto ricche in vitamine e antiossidanti, più delle piante allo stadio adulto. Possono essere coltivate così la maggior parte delle specie vegetali, gli ortaggi, specie selvatiche, specie anche aromatiche. Alcune specie non possono essere coltivate come le solanacee, tipo il pomodoro o la patata. La famiglia che è stata scelta è quella delle brassicacee, quella dei cavoli, del cavolo, dei broccoli in particolare, e vedremo se queste piante riescono a crescere in questo ambiente estremo, in queste condizioni estreme. Ecco, sono piante così nello spazio, abbandonate a se stesse, e così da persona semplice mi viene da chiedere, ma chi le bagna? Il satellite viene realizzato con un sistema di gestione e controllo che controllerà sia le condizioni microambientali ma anche l'irrigazione e controllerà anche lo stato di salute della pianta, quindi monitoreremo da lontano lo stato di salute della pianta ma anche la crescita, e questo ci permetterà anche di poter intervenire, cioè il sistema di gestione e controllo dovrà fare questo, gli ingegneri seguono questa parte qui. Ecco, questa sperimentazione servirà senz'altro per le prossime missioni nello spazio, chissà quando arriveranno. Ma credo che un microorto così possa avere applicazioni anche sulla Terra, anche in città. Sì, esatto. Questa è l'applicazione in un contesto urbano. Noi abbiamo già realizzato diversi progetti in questo ambito. Si possono realizzare dei sistemi produttivi su piccola scala, a livello anche domestico, dei veri e propri ortodomestici. Diciamo, sono delle piccole soluzioni che possono essere realizzate dentro casa e fornire verdura fresca, sana e pulita anche per una famiglia. Ne bastano per un individuo adulto circa 50-80 grammi al giorno per coprire i fabbisogni vitaminici, quindi è un alimento che può essere realizzato, come ho detto prima, in pochi giorni e quindi riuscire addirittura a garantire un apporto per una famiglia di 4-5 persone con pochi metri quadri di coltivazione, quindi non avendo neanche a disposizione la terra. Quindi pochi metri quadri di coltivazione all'interno del nostro appartamento, cioè non ci serve avere uno spazio esterno? All'interno dell'appartamento, nel senso si può coltivare utilizzando sia la luce artificiale, quello che facciamo noi, luce artificiale e luce LED, con lunghezze d'onda specifiche, e questo permette di far crescere le piante anche in un angolo buio di casa, quindi quelle parti della casa che non sono utilizzate direttamente ma potrebbero essere utilizzate per coltivare. E per quanto riguarda i consumi di acqua e di concimi, perché poi l'idroponica sfrutta, no? Un'acqua in cui sono disciolti dei nutrienti. Sì, esatto. Nel caso delle microverdure la cosa interessante è che possiamo ridurre sia il consumo di acqua che dei nutrienti, perché non ha bisogno di grandi quantità di fertilizzante, il ciclo è molto breve. L'acqua siamo intorno a 1,2 litri e 4 di consumo giornaliero, molto limitato, per metro quadro intendo, e anche il consumo elettrico può essere molto ridotto, insomma, perché si utilizzano delle lampade che non necessitano una grande intensità. Luca Nardi di Enea, visto che lei sta collaborando attivamente a questo progetto, magari ne sa più di noi. Secondo lei, quando finalmente saremo pronti per andare nello spazio? Per quanto riguarda lo spazio, le ricerche stanno andando avanti, nel senso ci sono le agenzie spaziali internazionali, la maggior parte, sia quella italiana ma anche la NASA e altre agenzie spaziali come quella cinese, stanno continuando le loro ricerche e le loro attività, quindi nello spazio si stanno orientando ad andare nello spazio. Missioni che saranno possibili senza le piante? Le piante hanno un ruolo ben preciso in queste missioni, sono in grado di fissare l'anidride carbonica, di filtrare l'acqua e di produrre ossigeno grazie alla fotosintesi, quindi sono importanti nel rigenerare l'ambiente in cui l'uomo vive, quindi utilizzare le piante ha un ruolo fondamentale sia come dei veri e propri filtri ma anche come supporto all'alimentazione, è fondamentale. Questo entra poi in un discorso molto ampio, quello dei sistemi biorigenerativi in cui si utilizzano anche altri organismi, tipo batteri, funghi o altri organismi che possono essere integrati in questo ciclo biorigenerativo, insomma. Quindi tutti gli esseri viventi alleati per la conquista nello spazio. E per quanto riguarda invece la diffusione di questi microorti anche in città, nei nostri appartamenti, a che punto siamo? I microorti in città si è iniziato a lavorare su questo, nel senso noi abbiamo già realizzato dei container, sono stati realizzati anche container da altri gruppi di ricerca, esistono soluzioni su piccola scala, diciamo hanno iniziato anche i grossi produttori a produrre piccoli armadietti o anche dei piccoli sistemi. In realtà bisogna soltanto mantenere la temperatura, che è quella che noi troviamo poi nelle nostre case, più delle volte va bene, controllare l'umidità, la circolazione dell'aria e l'illuminazione. E soprattutto poi i nutrienti con l'acqua, quindi questi piccoli ortodomestici già esistono come soluzioni, non sono molto diffuse perché hanno dei costi ancora elevati, però l'obiettivo è riuscire a realizzarne delle soluzioni a più basso costo che riescano a garantire una produzione dentro casa, quindi di portare l'alimento, il cibo a livello locale, quindi rendere il processo più sostenibile, ridurre i costi di trasporto e tutto ciò che si consuma per spostare le produzioni e produrre quanto una famiglia realmente necessita, senza sprecare. E senza bisogno di reali spazi esterni, di quei veri orti e giardini di cui purtroppo la maggior parte dei cittadini è priva. Sì, nelle città diciamo c'è sempre meno disponibilità di questi spazi, poi l'ambiente è fortemente contaminato, quindi bisogna anche produrre in una maniera più diciamo pulita, ridurre l'utilizzo anche degli agrofarmaci, perché in queste strutture è possibile anche produrre senza utilizzare agrofarmaci e pesticidi, e in questo caso il prodotto è veramente di alta qualità e la produzione è misurata sul reale fabbisogno della gente che la consuma, quindi è un prodotto in casa. È davvero un bel sogno, un micro orto a chilometro zero da coltivarsi in città, un sogno che probabilmente diventerà realtà. Luca Nardi, le informazioni su Green Cube, che sta per essere lançato nello spazio, sul sito di Enea, enea.it? Oppure l'Università La Sapienza, che è il coordinatore del progetto, è il professor Fabio Santoni dell'Università della Sapienza, che coordina tutta questa missione. Sono loro che stanno costruendo questo oggetto, noi diamo soltanto il supporto per quanto riguarda la crescita delle piante, insieme all'Università Federico II di Napoli, gruppo storico che si occupa da tantissimo tempo di agrospazio. È al Giardino Segreto, ne abbiamo sentito Stefania De Pascale del laboratorio di Portici. E la professoressa è il leader del gruppo, è un gruppo molto interessante perché è un gruppo femminile, c'è la professoressa De Micco, Aronne, sono un gruppo che lavora da molti anni, sono veramente bravi in questo settore. Il settore delle piante e dello spazio. Sì, e dell'agrospazio, sì. Gli abitanti di un pianeta senza fiori penserebbero che noi dovremmo essere sempre pazzi di gioia ad avere tali cose intorno a noi. Iris Murdoch. Vi aspetto domenica prossima con i fiori e le piante alla radio, sempre alle 15.30, oppure in podcast cercando sulle principali piattaforme o al sito radio24.it Il Giardino Segreto. Grazie per avermi seguito. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.